Alberto Primo, siete all'ascolto di Radio Pirata 38, puntualissimi come sempre, l'appuntamento più atteso dal quartiere Laurentino, ma non solo, abbiamo ascoltatrici e ascoltatori dalla città intera e direi dal pianeta intero, come abbiamo dimostrato con i messaggi di ieri che non ci siamo inventati. Know the clock don't stop ticking. Clock still spitting. The whole block politicking like presidents with their minds dead on arrival, leaving no evidence of a struggle. Fra poco spiegheremo un po' che significa questa Radio Pirata 38. Siamo alla quarta puntata. 351-0913-390 è il numero di telefono per contattare la redazione, che ormai al Sesto Ponte si è organizzata alla grande. 351-0913-390. Is chilling, tone is chilling. What more can I say? We stay building and make killings. Take children through the wilderness by the hand. It's a great feeling. Show them how to be a man exactly. Pack trees in my khakis. My sound fat like a knee. While you thin like a Mackie. Come on, shine so bright when I walk by. You gotta squint like the motherfucking sun in your eye. What? Say something, you stay frontin'. It ain't nothing, let off like a big game hunting. Me and Tech stay way blunted, way running on beaches, white sand with a slight tan. Smack the mic stand with my right hand when I'm excited. Leave you so far in the dust that you're forced to bite it. On fire like property, forced to riots. Yo, ain't no stopping us when we all unite. Che bellezze, ci arrivano le foto, dai, commercial like pop or underground like black markets. Where were you the day hip hop? Un abbraccio a Claudietto, dai! Allora abbiamo una prima dedica, anzi ne abbiamo già due, di cui una addirittura ai medici cubani. Qua stiamo davvero impazzendo. E la prima invece è diretta ai compagni e alle compagne della persona che ci ha inviato la richiesta. Ci comprendiamo in questa dedica, non so se mai smentite, se dobbiamo tirarcene fuori, ma non so neanche di che canzone si parla. Ascoltatela e commentatela con noi. Yeah. bellissima canzone, bellissima davvero. Abbiamo compreso ogni singola parola, anzi adesso la canteremo al contrario. Grazie ancora per la dedica. E ora ancora un po' di spazio per l'ennesima l'ennesima canzone dedicata dalla stessa persona. Ha davvero dei gusti, come dire, di tutti i colori. E un saluto ai medici cubani. Qua ci sentiamo davvero vicini a loro. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quarta puntata di Radio Pirata 38 in diretta dal Sesto Ponte. Tante e tanti in ascolto, piano piano si stanno aggiungendo. Con sole di primavera para plantar la bandera. Allora si entra nel vivo di questa puntata, un appuntamento quotidiano dalle 19 alle 20 che abbiamo proposto qualche giorno fa. Radio Pirata 38 era un progetto preesistente qui al Sesto Ponte, poi interrotto già anni fa, e un progetto che vedeva tanti ragazzi trasmettere soprattutto la notte, e che quindi è un progetto che non mi ha mai visto all'ascolto, ma un progetto che insomma si è interrotto via via con gli impegni della vita e tante altre vicissitudini, fino a poi arrivare ai giorni nostri, in cui insomma si sono animate un po' le finestre, i balconi. È tuttora l'unico modo di comunicare tra vicini, oltre i soliti social network e milioni di chat che si stanno aprendo in questi giorni, che sono davvero soffocanti. Abbiamo preferito i balconi e le finestre, ci siamo un po' chiacchierati, abbiamo ascoltato anche della musica, abbiamo passato dei momenti un po' di unione fra il circondariato di Via Giuliotti, e poi abbiamo proposto questo strumento. La radio ci sembra il modo più circolare, intanto può arrivare al quartiere intero e non soltanto ai nostri vicini. E poi sappiamo che attraverso il numero di telefono ci possono arrivare messaggi, anche richieste, domande, dubbi che ci stanno attraversando in questi giorni per la testa. Abbiamo già raccolto una necessità nel quartiere, che è quella di PC che servono a studenti del quartiere per le lezioni online. Ci siamo adoperati qua dal Sesto Ponte per rimettere in piedi la biblioteca che era stata sgomberata al Quarto Ponte, e rimetterla in piedi, cercando di riorganizzare almeno un minimo di circolazione. Sono presenti dei libri qui in cortile del Sesto Ponte, sono il miglior modo secondo noi per passare il tempo quando si è soli a casa. E piano piano si stanno riattivando tante cose intorno a noi e speriamo che questo strumento, questa radio, possa essere un modo per comunicare in quartiere. Aspettiamo il vostro riscontro, siamo disponibili anche a rimandare messaggi vocali, saluti, ma anche, che so, riflessioni, idee che stanno attraversando il quartiere in questi giorni. Quindi un ringraziamento a chi partecipa da tutta Roma, mi raccomando, mandateci ancora richieste musicali, noi le apprezziamo tantissimo, vi sentiamo più vicini che mai in un momento in cui attraversare Roma è piuttosto difficile. E dai, continuiamo questa serata insieme e vediamo poi di fare anche qualche commento. Insomma, sappiamo che Laurentino è sulla cronaca nazionale da questa mattina per dei fatti tristi e orribili che sono accaduti qua. Ci prendiamo anche il tempo per commentarli. Per adesso ascoltiamoci un po' di musica. Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna. A tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città. Ragazzi, i brani sono registrati sulle musicassette, oh! Here, but we can, you know we can. soldiers up to my knees. Turn me on and on, it smells like that, yeah. Till the rain pours through the ceiling. But we can, you know we can. But we can, you know we can. Let's wish the landlord, let's wish the landlord, let's wish the landlord back. Questa canzone salutiamo Via Guareschi con tutto il cuore, prima o poi ci incontreremo. Respira, chi è Emanuele? 351 0913 390, lo ripetiamo, 351 0913 390. Non lasciateci la possibilità di decidere su quest'ora di intrattenimento musicale, perché potrebbe degenerare. Qui abbiamo anche la pasta fresca che stanno preparando i nostri collaboratori alle nostre spalle, quindi cerchiamo di stringere che fra poco si magna. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interessa. Allora, intanto alla vita, mandiamo un abbraccio a chi ci ascolta da Fiumicino, dagli sempre, dagli regà. L'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un questa triste sera sono rosario. Tantissimi ad ascoltarci e tutta la terra si è avvolta. Davvero siamo emozionatissime. E tra l'altro la chiave nascosta, si vede che segreti, vi state riprendendo da un sabato sera importante, forse vi siete svegliati qualche ora fa, state facendo colazione stelle, con noi la guerra tra i soli. Una domenica con noi, dai. I crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. Palombino, dai! Alla discoteca! Lunedì sera alla discoteca, martedì sera alla discoteca, mercoledì che mal di testa, ma sono andata alla discoteca, giovedì sera alla discoteca, venerdì sera non volevo andarci, ma Fabio è venuto a cercarmi, allora sono andata alla discoteca, sabato discoteca, domenica alla discoteca. Allora, stiamo proseguendo un po' silenziosi sulla voce, ma sono particolarmente tante le richieste questa sera, non riusciamo proprio a districarci. E intanto ringraziamo chi ci scrive da Giardinetti, da chi ci scrive dal resto di Roma. Davvero un bel ascolto questa sera e vi abbracciamo forte. Ora voi là dentro, venite fuori con le mani in alto! Sì, le mani verso il cielo! Guarda questa mia esibizione, amico. Sì, prudente. Lo sbirro mi punta, disturba le mie passeggiate. Lo sbirro si incanta, lui certe cose non le sa. Lo sbirro si allarga, comunque lui deve mangiare. Chi sotto controllo e chi il controllo te lo fa. Guardati attorno, c'è la polizia, c'è pure la roba e i soldi girano di qua e di là. La la la la. Lo sbirro si imbianca finché finisce ad imbiancare. Lo sbirro si incarica di farci la carica. Lo sbirro è uno sbirro, lo sbirro deve controllare. Chi sotto controllo e chi controllo te lo fa. Guardati attorno, c'è la polizia, c'è pure la roba e i soldi girano di qua e di là. E allora alla grande si prosegue su Radio Pirata 38. Quest'oggi ci prendiamo tempo per la musica, tempo per riflettere e continuiamo a tema sbirri in merda. E questa la dedichiamo ai nostri non cari amici. Attenzione, volete quindi. Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4. questo è il ballo della Digos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Digos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo dai muretti. Alle 5 del mattino ti svegliamo col mandato. Noi sappiamo tutto quanto e l'hanno raccontato. Infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo, carceriamo. One, two, three, four. Questo è il ballo della Digos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Digos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi, siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana. Ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Digos è bella. La Digos è brava. La Digos è bella. La Digos è brava. Questo è il ballo della Digos. Questo è il ballo della Digos. Viva i tutori dell'ordine! Viva i carabinieri! E viva la polizia di Stato! Massimo rispetto alla guardia di finanza! Un abbraccio sincero ai Nox! Rispetto alle guardie svizzere! Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo. Radio Pirata 38 in diretta dalla trentottena al Sesto Ponte. Siete ormai all'ascolto, credo che alcune di voi sono all'ascolto dalla prima puntata. Siamo alla quarta, avete un po' seguito il filo. L'intenzione è sicuramente anche l'intrattenimento e stimolare, invogliare alla comunicazione in quartiere. Quest'oggi anche qui, ovviamente come nel resto d'Italia, ci siamo svegliati con la notizia di quanto avvenuto questa notte. Un ragazzo ha ammazzato la madre e ha accoltellato anche la sorella. Come dire, la nostra intenzione in questi buoni 40 minuti di diretta non era assolutamente di sorvolare, per noi farci carico di quanto avviene a fianco a casa nostra è sicuramente l'impegno che ci riguarda, l'attenzione quotidiana. Anzi, forse è un appello che facciamo, quello a impegnarci a condividere i problemi, a non stare chiusi soli dentro le case. Sappiamo quanti limiti abbiamo in questi giorni, ma ci deve interessare quanto avviene nella porta a fianco. Sappiamo che, ed è abbastanza evidente, nonostante i media non lo raccontino praticamente in questi giorni, quanto le violenze domestiche sicuramente sono aumentate non solo in questo paese ma ovunque, perché ovunque piano piano si stanno ottenendo le stesse misure di chiusura totale, internamento in casa. La chiamano distanza sociale, ma ci sembrano delle operazioni abbastanza precise, tra l'altro che hanno poco a che fare con la salute, a nostro avviso, perché forse le famiglie sono, insieme agli ospedali, i luoghi di lavoro, le carceri sono i luoghi dove più facilmente si può allargare il contagio. Abbiamo visto anche, insomma, in molti impegnati a commentare chi si faceva una passeggiata al parco piuttosto che commentare il fatto che c'era qualcuno ancora obbligato ad andare sui posti di lavoro, ammassato nelle fabbriche, a rischiare il contagio. Ma tornando un po' a quello che volevamo dire, abbiamo letto dai giornali, non siamo a conoscenza di particolari, non siamo qua a fare gli opinionisti del caso, che il ragazzo che ora si ritrova rinchiuso a Regina Coeli era da tempo con disturbi che vengono chiamati psichiatrici comunemente. Sappiamo che in un momento di chiusura totale qualsiasi conflitto, qualsiasi difficoltà sicuramente si acuisce in un sistema che delega alla famiglia tutto. Non esistono assolutamente delle relazioni che vengono immaginate per supportare anche chi ha delle difficoltà, chi si vive forti disagi e forti conflitti. Spesso le famiglie, l'unica arma che hanno è quella del TSO, sono misure che tra l'altro si stanno allargando a macchia d'olio in questi giorni. Leggevamo la cronaca riguardante una città come Torino che in una sola giornata ci sono stati 10 TSO su un totale di solito che le autorità ne fanno di 200 l'anno. Sono dati davvero impressionanti che ci devono un po' far rendere conto della merda che abbiamo vissuto fino a oggi, e che forse questo momento ci dovrebbe vedere impegnati a sovvertire, a ribaltare completamente. Il tentativo qua da parte nostra, sicuramente una parte privilegiata perché si può permettere una vita quotidiana collettiva insieme, la risoluzione di problemi che ci riguardano collettivamente, questo è costata tanta fatica, ma è una proposta che abbiamo fatto in quasi 30 anni al quartiere intero. I tentativi sono stati fatti, pensiamo che insomma sia questa la strada da percorrere in questi giorni più che mai. Da una parte sicuramente impegnarci ad ascoltare il prossimo, e il tentativo della radio vuole essere una suggestione, inventiamocene altri modi insieme. Quello che sicuramente è lo sfogatoio dei social network, quello che possono essere delle comunicazioni poco circolari, molto di lamento, e sicuramente riteniamo che dopo tanti giorni di chiusura a casa non possano essere più utili. Proviamo a sollecitare altro, proviamo a inventarci altri modi, proviamo davvero ad affrontare lo schifo delle vite in cui ci vogliono costringere insieme, non solo in questo momento difficile. Ne verranno altri molto più difficili. Chi pagherà questo periodo di crisi saranno sempre gli stessi, non saranno di certo i ricchi, non saranno di certo quelli che potranno anche dare un po' fondo ai propri risparmi per affrontare questo lungo periodo. Proviamo a pensare, a ragionare insieme come viverlo al meglio. Il dolore di questa giornata ci appartiene, così come il dolore per le persone che stanno morendo nell'impossibilità di ricevere cure. Che sia chiaro anche a chi in questi giorni un po' si sta impegnando dicendo che è inopportuno un momento di intrattenimento come di un'ora di musica. Dobbiamo ripartire da noi, facciamolo insieme. I got lots of problems, female trouble. Maybe I'm tempted, female trouble. They say I'm the state, but I don't care. Go ahead, put me in your last picture. I got lots of problems, email trouble. Maybe I'm 20, email trouble. Thank you. anche oggi dopo Pilates ci è arrivato un ennesimo messaggio, sempre rivolto al quartiere. Un abbraccio a tutte e tutti gli adulti, genitori e non, che stanno anteponendo il buon senso alla cieca paura e consentono ai bambini e alle bambine di prendere una boccata d'aria ogni tanto. Coraggio. E questa è la canzone per voi. Sou brasileira, mestiça, parceira, mulata. Não tem ouro nem prata do samba que sangra do meu coração. Tua menina de cor, pedaço de bom carinho. Entrei no teu passo malandro, eu não sou como a tal Conceição. Chega de cantar essa tal de saudade. Meu caboclo moreno, mulato, amuleto do nosso Brasil. Olha meu preto bonito, te quero, prometo, te gosto pra sempre do samba canção, ao primeiro apito do ano 3000. Vanno richieste da Castelli Leva con affetto, davvero che bella questa partecipazione campagnola. 351-09-13-390 è il numero di telefono che ripetiamo, segnatevelo, 351-09-13-390. E poi ancora abbiamo anche un contatto Facebook che è Laurentino Borgata, lì ci potete scrivere, preferiamo il numero di telefono perché siamo più interattivi in questo senso. Seguono le richieste, sono tantissime. Intanto c'è qui l'assistente alla regia che sta perdendo colpi, ma passeremo un bel pezzo di serata insieme, forse mangeremo in diretta con voi. Il silenzio del monte va preparando un adios. La palabra que se dirá in memoria será la explosión. Todo el mundo quiere ser obra. granizo de plomo hará. Allora questa invece la dedico io a voi tutte e tutti. Peccato che non c'è una telecamera, ma adesso ballerò per voi. nonostante il punk ve l'abbiamo messo, siamo pronti davvero a tutto. Diaguareschi, fatti sentire, mandaci una richiesta. Svuota il freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Chiamiamo nel vendo, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Vendo, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer, c'ho passaggio assicurato sopra questo diesel. Ho la scorta di flow, voglio frero ricco. Cazzo vuoi Maricco, non ti becco mi impicco. Sto tipo che presse di M, non firmo TN. Giuro che non pago quell'ATM. Prendo treni, sono tornata ieri, non ho più pensieri. zeri, you know what I'm saying. Mi ricordo quando sfottevi, quel che facciamo saluti, non sono nata ieri. Resto solo con amici, però quelli veri. Conosci prima di parlare, niente te la credi. Oh sì, mi richiami, ti blocco, resto fedele, sempre al cazzo di blocco. Non mi sopporti, ma ben doccia la testa, te le tue amiche, non è messa la festa. Uno arrivo, tu entro free, tre bitche che slaccian jeans. Uno arrivo, tu entro free, tre bitche che slaccian jeans. Uno arrivo, tu entro free, tre bitche che slaccian jeans. Uno arrivo, tu entro free, tre bitche che slaccian jeans. Ci giochiamo nel bando, sopra il booster. Hanno fatture, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. Allora bella questa canzone dedicata a una certa Giulia. Dai Giulia, dai forte. Non parlo di buste, mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questa diesel. Allora è purtroppo giunto il momento dei saluti. Sappiamo che siete già fin troppo tristi a sapere che fra pochi minuti dovrete passare la serata senza di noi. Qui dal Sesto Ponte l'invito è sempre aperto. Ovviamente sappiamo che dal Messico è un po' difficile giungere, anche da Amsterdam, ma da Castel di Leva si può. E dunque noi abbracciamo chi ci ha ascoltato, sopportato, è il tempo di supportarci. E come dire, torniamo domani, stessa ora, stesso posto, e daremo del nostro meglio con i vostri contributi. Proveremo per il lunedì, che di solito il lunedì è assemblea in ogni posto occupato, a farla insieme a voi. Sarà davvero bello. Non vi risparmieremo neanche le assemblee. Quindi dalle 19 alle 20 c'è diretta musicale, un po' di riflessioni così, e poi assemblea, ma la nostra, senza la possibilità di intervenire, dovete semplicemente ascoltare. È una delle assemblee più avvincenti che esiste nella capitale, e dunque provatela con noi, provatela. Bene, diamo una buona serata, una pronta guarigione a Gaetano di Torbella Monica. Ancora una buona serata, un buon ascolto, una pronta guarigione per Maria del Laurentino. Ancora una buona serata, un buon ascolto, una pronta guarigione per Antonio, il marito di Fedra. Ancora diamo una buona serata, un buon ascolto, una pronta guarigione per Giuseppe, il marito di Mafalda di San Basilio. Ancora una buona serata, un buon ascolto, una pronta guarigione per Piccolo Fiore, il nipote di Valentina di Torpignatara. Ancora una buona serata, un buon ascolto, una pronta guarigione per Bruna, la mamma di Adriana di Viale Marconi. Ancora una buona serata, un buon ascolto, una pronta guarigione per Rosa, la mamma di Daniela, la nostra collega conduttrice. Ancora una buona serata, un buon ascolto, una pronta guarigione per Giulio, il papà di Margherita. E ancora una buona serata, un buon ascolto, una pronta guarigione per Donato, il marito di Nicoletta della Magliana. Ancora diamo una buona serata, un buon ascolto, una pronta guarigione per Silvia del Nomentano. Ebbene, abbiamo fatto tutti i festeggiati, tutti i malatini. Ricordati all'ascolto di Radio Gioia Paradise Amica, programma condotto in studio da Maurizio Natraccione, ti terrà compagnia fino alle ore 22. That's the sound that I want. qu'est-ce que c'est que cette merde? Thank you. Thank you.